24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri giorni anche attraverso la musica. Oggi torniamo nel 2001, l'anno dell'11 settembre dell'attacco alle Torri Gemelle. E allora vi facciamo ascoltare le drammatiche registrazioni delle telefonate che partivano dall'interno delle Torri Gemelle subito prima che crollasse. C'è un incendio nel mio piano. Ti amo, dia Nicole che amo tanto anche lei. Non so come andrà a finire qui, ti amo da impazzire. Volevo dirvi che vi voglio bene, che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. Qui è pieno di fumo e poi vi amo sempre. Dalle finestre adesso vedo salire del fumo. C'è tanto fumo, sta salendo tanto fumo. Cerchi di mantenere la calma, stia tranquillo, stiamo venendo a prendere. Va bene, d'accordo, ma fate in fretta per favore. Battaglione 7 al piano 40 della torre 2. Battaglione 7, a che piano siete arrivati? Stiamo per arrivare. Fate in fretta, faccio fatica a respirare, non vedo niente. Hey mom, it's Brad. Ciao mamma, sono Brad. Ti chiamo solo perché avrai sicuramente sentito dell'aereo che si è schiantato contro la torre 1 del World Trade Center 1. Noi stiamo bene, siamo nella torre 2. Certo, è stata un'esperienza terribile per tutti noi. Ho visto una persona volare giù dal 91° piano. Fatti sentire. Ti voglio bene. Mamma, sono Steven. Il mio grattacielo è stato colpito da un aereo. Proprio adesso. Comunque, credo di stare bene. Non mi sono fatto niente, ma c'è molto fumo. Volevo solo dirti che ti voglio bene da morire e che ti chiamo appena mi sono messo in salvo. Ciao, mamma. Quindi è alla Torre 2? Sì. Alla Torre 2 del Trade Center, 88° piano, angolo nord-ovest. Metta degli asciugamani bagnati. Si trova all'88°? Sì. Non è troppo tardi. Abbiamo mandato qualcuno lassù a prendervi, non preoccupatevi. Sono al World Trade Center 1 e vorrei precisare che in questo momento sono ancora dentro. Sei sopra o sotto il punto in cui è avvenuto il... Non ne ho idea, non so dove si sia schiantato l'aereo. A quanto mi risulta si è trattato di un aereo. Jim, si è trattato di due aerei. Uno contro una torre, l'altro contro l'altra. Cosa vedi intorno a te adesso? C'è del fumo? Ci sono delle fiamme? Vorrei dire che sono bloccato all'86° piano. La porta antincendio ci ha chiusi dentro. Intorno a noi sono caduti detriti e macerie. Una parte della zona centrale dell'edificio è andata distrutta. Sean, sono io. Volevo dirti che ti amo e che sono intrappolata in questo grattacielo di New York. È pieno di fumo e volevo dirti che ti amerò per sempre. Queste le telefonate piene d'angoscia che arrivavano dalle Torri Gemelle, ma il 2001 tra storia e musica arriverà tra poco. Prima, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, ma tu te lo ricordi quel momento dell'11 settembre? Era, mi sembra fosse primo pomeriggio qui in Italia. Sì, purtroppo sì, perché a quel tempo lavoravo in un'agenzia di pubblicità e tenevamo sempre la televisione accesa e di colpo arrivano queste immagini e non capivamo se fosse realtà o fiction, faceva sì, impressione. Mandavano in loop sempre l'immagine sì. Del primo aereo. E tu stavi lì davanti e dicevi non è possibile. E la cosa è peggiorata quando è arrivato il secondo. Sì, che non... impressionante. Ed era verissimo. Purtroppo. Comunque fa anche impressione il fatto che sembra ieri, invece sono passati già 16 anni. E a proposito di sembra ieri, alleggeriamo. Sì, perché proviamoci. Te li ricordi loro? Senti, Starsky, prima o poi dovrai deciderti ad andare dal dentista. Hutch, che c'è? Devi promettermi una cosa. Sì, dimmi. Quando sarà finita questa storia? Devi portarmi a tutti i costi da un dentista. Ti fa male? Sto impazzendo dal dolore. Così impari a non darmi retta. Comunque certo che me li ricordo loro. Stupendo. Starsky e Hutch, il biondo e il moro. Esatto. Erano qualche giorno fa, due giorni fa, sulla prima pagina del Corriere, un po' invecchiati, un po' mal ridotti. Uno sulla sedia a rotelle e l'altro che lo spingeva. Però insomma la cosa straordinaria è che malgrado tutto sono rimasti amicissimi. Fratelli, dicono loro. Quindi un esempio di amicizia oltre il lavoro. Sorelle? Questo sì. Mi vuoi dire, Krav? Esatto. Come noi? Esatto. La bionda e la bruna? Nel nostro caso siamo tutte e due bionde, non so se ti sei resa conto. È per questo che non siamo amiche. Esatto. Perché non ti tingi? Sono già tinta, sono tinta bionda, allora lo sai benissimo. Smetti. Vabbè, tu però preferivi il biondo o il bruno? Perché su questo potrebbe rompersi un'amicizia. Ma guarda, io da piccola preferivo il biondo, ma credo fosse legata a una cosa, non so, Candy Barbie era biondo. Sì. Poi crescendo ho scelto il bruno, cioè penso invece il bruno. Sono rimasta sul biondo, per cui non mi sono evoluta, e poi perché secondo me i biondi invecchiano meglio. Boh. Tu dici, sì, ma sì, guarda, sì, io sì. Non sono convinta. Comunque nel dubbio io oggi vedo grigio. Senti, vabbè, il tuo grigio va oltre. Ma te la ricordi la versione italiana del biondo e del bruno? Beh, vabbè, certo, parliamo di Bud Spencer e Terence Hill. Anche lì preferivi il bruno? Ah, vabbè, cravetto, questa non vale. Però mi ricordo anche loro. Questa è la ballata di Boy and You. Due ragazzi che hanno una marcia in più. E loro te le ricordi? Benissimo. Sempre biondo? Tutti e due. Ah! Erano stupendi tutti e due, per cui va bene. Io comunque mi chiedevo, oggi sì. Chi sarebbero il biondo e il bruno della televisione? Insomma, la coppia italiana biondo e bruno. Cioè gli amici. Gli amici, sì. Il biondo e il bruno. Ce l'ho. Dai. Vado? Vai. Lotti e Fonzi, cioè Renzi. No, sì. Dai. Beh, senti un attimo. Conosco Luca Lotti da anni. Credo che sua moglie Cristina e i suoi figli Gerardo e Anita, che sono molto piccoli, debbano sapere di avere una persona straordinariamente onesta in casa. Quando è accaduto qualcosa a Graziano Del Rio, a Maria Elena Boschi e oggi a Luca Lotti, siccome io conosco queste persone, io non accetto processi sommari. Vabbè. Cravetto, averci gli amici così. Sì, degli amici comunque che ti sostengono, ti difendono. Da sempre, da amici sempre. Veri da sempre. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ad un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Leo Mameli non sa scegliere. Ha 39 anni, un lavoro molto precario in una casa editrice, un sogno che non ha neanche provato a realizzare e convive con una ragazza molto più giovane per la quale ha divorziato. Ma soprattutto Leo, come amante, ha la sua ex moglie. Leo è il protagonista di Consigli pratici per uccidere mia suocera, di Giulio Perrone. Giulio, il tuo Leo è diviso tra una nuova compagna, un'ex moglie come amante e poi c'è anche la suocera del titolo, che però non è la sua, quindi intanto partiamo da qui, spiegaci chi è. Ma la suocera del titolo in realtà è una vera e propria sottotrama, nel senso che Leo, che lavora in una casa editrice, si trova improvvisamente a dover affrontare una richiesta molto strana da parte del suo editore. Dice a lui e ai suoi collaboratori che dovranno aiutarlo a trovare una soluzione per uccidere una suocera all'interno del suo nuovo romanzo che uscirà a breve, che è un romanzo giallo. Giulio, ma tornando a Leo, il tuo protagonista, perché tra tutte le donne possibili finisce proprio con la ex moglie? Probabilmente c'è da una parte il fatto che la loro storia si era fermata e si era incrinata non tanto per una mancanza di passione oppure una mancanza di sentimento, quanto per una sua incapacità a rispondere alle esigenze di una donna che ad un certo punto voleva vivere una vita più completa, più matura, e quindi qualcosa di quell'amore, di quel sentimento era rimasto fermo. E devo dire che questa cosa, che io pensavo fosse un po' particolare e strana, invece poi una volta che è uscito il libro e parlando con un po' di persone, mi sono reso conto, insomma, che non è una cosa così incredibile, cioè esistono storie di questo tipo. Le donne intorno a Leo, comunque, sono tutte, ciascuna a suo modo, volitive, adulte, mentre tutti gli uomini del tuo libro sembrano rimasti bambini. Ma secondo te è perché non vogliono o perché non riescono a crescere? Io credo che oggi come oggi sicuramente le donne nella nostra società contemporanea siano più convinte di quello che vogliono e di quello che cercano. Si stanno finalmente cominciando ad affermare un po' di più in tutti gli ambiti, anche quelli professionali, mentre gli uomini vivono una crisi costante che è iniziata con tutto l'aspetto professionale, lavorativo, quindi una carriera sempre più precaria, e dall'altra parte anche l'incrinare il loro ruolo maschile, e non riescono, secondo me, molti, soprattutto i quarantenni, ad avere la maturità e la capacità di costruire insieme a una donna in modo paritetico una storia insieme che va avanti condividendola, e quindi c'è questa voglia di tornare a un presente costante, a una spassosità che però non si trasforma mai in un prendersi delle responsabilità reali, per cui effettivamente da questo punto di vista il protagonista secondo me è abbastanza calzante. Di Leo in generale, oltre l'incostanza, colpisce anche l'inconsistenza. Tu, guardandoti intorno, diresti che sia l'accidia un po' il vizio capitale di molti quarantenni? Credo che sia assolutamente vero. Cioè, c'è una cosa che forse salva il protagonista, quantomeno, che è l'autoironia e la capacità anche di cercare di guardare al futuro sempre con un certo minimo grado di intraprendenza. Quindi prova a sperare almeno che le cose possano migliorare, però non agisce concretamente, cioè rimane un po' fermo, e effettivamente è un qualcosa che, guardandomi intorno, vedo spesso. Cioè, tante persone si lamentano della condizione che vivono da ogni punto di vista, però non agiscono per tentare di cambiarla. Però le donne nel tuo romanzo non stanno comunque, e forse anche nella realtà, forse non stanno messe benissimo se poi si ritrovano a contendersi uno come Leo. Perché secondo te? Ma io penso che comunque poi è un protagonista, è un personaggio abbastanza affascinante. Credo che queste due donne in realtà però facciano uno scarto superiore, nel senso che entrambe al loro modo riescono a guardare oltre quella che è la sua superficialità a volte, e provano un sentimento che è vero, autentico, e questo tipo di sentimento le porta anche a voler vivere una storia in maniera completa, e quindi a volersi in qualche maniera dedicare completamente all'altra persona. In questo senso soprattutto l'ex moglie, che è quella che occupa il ruolo un po' più particolare, perché passare dall'essere la compagna ufficiale ad addirittura l'amante, dopo tutto il trambusto che c'è stato nell'essere lasciata, è chiaro che denota una forza e una capacità di provare un sentimento che è superiore addirittura a quella che possa essere l'umiliazione, a quello che possa essere il risentimento. Giulio Perrone, tu nel 2005 hai fondato la casa editrice che porta il tuo nome, quindi sei esattamente come il datore di Leo, uno scrittore e un editore. Ma come lui pensi sia possibile confezionare un bestseller a tavolino? No, perché in qualche modo intanto c'è sempre la possibilità che un libro, anche se è un outsider, diventi invece un libro particolarmente apprezzato e letto dal pubblico. E poi perché questo ci consente di avere la sensazione ancora che siano le storie, che siano gli autori, che sia il modo di scriverle a fare la differenza. Cioè, io non credo che si possa mai a un autore dare una ricetta e chiedergli di seguire una linea per impostare il romanzo in un certo modo ed andare incontro al pubblico. Quella è l'antiletteratura e secondo me per certi versi anche l'antieditoria. Giulio Perrone, un'ultima domanda: ma c'è più di te in Leo o nell'editore? Questa è una bella domanda, spero nell'editore poco, perché ho costruito un editore che è abbastanza estremo, credo che sia un po' un insieme di tutti i difetti e di tutte le piccole follie che noi editori abbiamo. Per quello che riguarda Leo, sicuramente essendo un mio coetaneo, mi sento abbastanza immerso nella sua difficoltà, e devo dire che ho provato soprattutto a far sì che lui parlasse in modo abbastanza autentico, cioè riportando quelle che possono essere le difficoltà, i pensieri e anche a volte l'incapacità di prendere delle decisioni concrete e immediate da parte degli uomini oggi. Grazie Giulio Perrone, consigli pratici per uccidere mia suocera. Rizzoli. Fiori, scusa, però il titolo era Consigli per uccidere la suocera, ma i consigli ci sono o no? Perché... ti interessa, No, così per parlare. Io con mia suocera sono amicissima. Questo non credo, come sei amica mia? Molto di più. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Andrea Capaldi, 38 anni, imprenditore sociale e culturale, nato a Napoli, e proprio dalla sua Napoli è partito perché voleva portare il mare a Milano. Andrea, ma qual è il mare che vuoi portare a Milano? Il mare che voglio portare a Milano è un mare di cultura, un mare di conoscenza, un mare di incontri, di confronti e crescite in una dimensione collettiva. Noi di Mare Culturale Urbano siamo convinti che uno spazio che offre una cultura non possono prescindere dall'essere dei luoghi, dei punti di riferimento, dei quartieri, delle zone dove nascono in città. Mare Culturale Urbano è un progetto che parte proprio dal territorio ed in particolare dalle periferie. Perché? Da una parte vogliamo dare alle città italiane un contributo di internazionalizzazione. In Europa, le capitali d'Europa, le capitali del mondo hanno anche nelle periferie, nelle zone non centrali della città, dei luoghi di destinazione che sono sia territoriali, quindi delle città stesse, ma anche internazionali. Facciamo un esempio concreto, perché nel 2016 siete partiti con l'apertura di una cascina del 600, sì, a Cascina Torrette di Trenno, dove avviene cosa? Siamo praticamente in zona San Siro, una zona assolutamente vergine dal punto di vista dell'offerta sociale e culturale, dove abbiamo aperto quello che oggi si definirebbe un community hub, quindi una nuova piazza per i cittadini e le cittadine di Milano, e un nuovo palcoscenico e una nuova casa per gli artisti. Si lavora, ci sono 40 postazioni di co-working, si fa formazione, perché stiamo attivando dei percorsi di formazione soprattutto rispetto ai temi che sono a noi cari, quelli di rigenerazione urbana, innovazione sociale, inclusione culturale. Ci sono artisti in residenza, artisti che arrivano da tutto il mondo, che vengono in residenza per periodi medio-lunghi, lavorano con e per le persone di questo territorio e mettono in scena, quindi aprono al pubblico il loro lavoro. Senti, nella presentazione ti abbiamo definito un imprenditore sociale e culturale. Cosa significa? È una persona che decide di investire dei soldi per attivare un'attività che è assolutamente imprenditoriale e quindi economica, che deve stare in piedi, quindi assolutamente sostenibile, ma che poi decide che tutti i margini che arrivano dall'attività poi devono essere necessariamente reinvestiti nell'attività stessa. Quindi è proprio poi la prova provata che con la cultura si mangia. Assolutamente sì. Noi con Mare Culturale Urbano poi stiamo provando a sviluppare un modello di business che definiamo innovativo, perché facciamo della diversificazione delle fonti di ricavo la nostra sostenibilità. Senti Andrea, adesso sempre a Milano state lavorando ad un altro grosso progetto in via Novara. Di cosa si tratta? In realtà via Novara è stato proprio il primo innesco. Nascerà poi, con un cantiere che dovrebbe iniziare entro l'estate, un polo culturale di circa 6.000 metri quadri coperti, in totale saranno circa 9.000 di costruito. Grossissimo. Sì, con due teatri, tre cinema, studi di registrazione e sale prove per musicisti, atelier per artisti visivi, chiaramente un'altra palazzina dedicata al food con bistrò, bar e terrazza per eventi, sale polivalenti dove poter fare creazione, formazione, poter ospitare eventi pubblici e privati, che chiaramente poi anche là un'altra fonte di ricavo importante è tutto quello, è incastrarsi con tutto quello che una città come Milano propone a livello nazionale e internazionale di grandi eventi. Sei riuscito a portare il mare a Milano, ora davvero lo puoi portare ovunque, state pensando anche ad altre periferie urbane? Guarda, lavorando al nostro modello, sicuramente il nostro modello è sia replicabile che scalabile. Per esempio a Bagnoli, da napoletano, un luogo come questo, di carattere internazionale, con questa vita, mi auguro assolutamente di poterlo replicare lì, così come in tante altre periferie, perché assolutamente questo è un modello che va replicato. Questa esperienza mi sta insegnando che sta funzionando. Il mare a Milano, bello, vero? Sì, ma soprattutto mi ha fatto venire in mente un'altra coppia di amici italiani. Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me. L'unica volta che tu sei stato a Genova c'ero anch'io. Quella volta lì c'ero andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro. Quella volta c'ero. A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosperto. Del suo bello indeggio che esso c'è dentro, esso andava da Porta Lodovica fino in via Farini. Hai capito? Tutto scosparso. Cochi e Renato, certo. Il mare a Milano c'era. Dici che hanno avuto l'idea di lì per portare il mare? Mi sembra evidente. casa mia. Donatella, buongiorno. Io te lo direi subito che ho visto il film che mi hai detto, però è strano. E perché? Perché questo film, che è La Bella e la Bestia, è un cartone non animato. C'ha gli attori veri, non disegnati, hai capito? C'è nessuno. E se fosse colei che spezzerà l'incantesimo? Chi è là? Venga alla luce. Il padrone non è terribile come sembra. Io dico, uccidiamo la bestia! No! Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Poi sentila nel cuore. Insomma, la storia della Bella e la Bestia la conoscete tutti. Vabbè, però magari ce la ricorda. C'è questo principe che viene incantizzato da una strega e diventa un cesso, una bestia, insomma. E questa tipa, Bella, molto, finisce nel suo castello e senza saperlo si innamora di lui, pure se è orribile. E sempre senza saperlo, finisce che trova un modo per disincantizzarlo e farlo tornare decente. Senta, Donatella, lei lo sa che ha una qualità incredibile? Ovvero lei riuscirebbe a spoetizzare... Ne ha moltissime, però lei può spoetizzare qualunque cosa. Sì, lo sai che c'è stata una polemica, tipo che in alcuni paesi l'hanno tagliato questo film. Che polemica, ci spieghi? Praticamente c'è il personaggio dell'amico di Gaston, che è il tizio che poi in realtà vorrebbe sposarsi la Bella, che in questo film si capisce che è gay. E quindi? Non mi fa ridere. E allora in Russia, in Malesia, in altri posti, hanno tagliato il film. Vuole dire che l'hanno censurato? Bene, Donatella, ci dica degli attori. Allora, questa volta ci sono veramente un sacco di attori famosissimi. Sì. Tipo Emma Watson. Emma Watson, Donatella, la prego. Emma Watson. Watson? Sì, Watson. Come Watson. Gregor, va bene, ok. Kevin Klein, che poi è quello che fa i vestiti. No, credo. Ma no, non fa i vestiti. Senta, Donatella, facciamo così. Io ce l'ho un golfino suo. Comunque. Va bene, no, lei crede di averlo. Senta, il David di Donatella, lei lo darebbe a questo film? Io, allora, glielo darei, però sì. Ti dico anche una cosa. Dica. Se glielo do perché a me piacciono le fiabe a lieto fine. Beh, allora gli do il David. Sì. Però so benissimo che nella realtà... una si innamorerebbe di un mostro così, solo se questo mostro ha tanti soldi. Allora, mi vado a vedere un film che parla direttamente di cessi con soldi. Ah, vabbè, Donatella, io la ringrazio. Oggi anche la morale ha fatto. Prego, comunque la morale ci sarai. Fiori, ma tu preferisci essere la Bella o la Bestia? Cara, secondo te? Secondo me vorresti fare la Bella, ma in realtà sei una bestia. No, quella sei tu. Io vorrei essere bestia, ma son bella. Certo, perché la Fiori è un po' come Jessica Rabbit. Io non sono cattiva, è che mi disegnano così. L'hai detto tu, eh? Ma che bella scelta! Poi ho sentito il problema. Problema è il mio nome di mezzo, il mio middle name. Che bella scelta per annunciare il 2001. Sono contento che vi piaccia. Ciao Ale, ciao Ale. Ciao Frankie, buongiorno. Ciao. Ma nel tuo caso, Mad About You, chi è il you? Bionda, chi sei, bruna? Pazzo? Cioè, ma perché mi mettete in mezzo a queste cose? Scusate, sei qui, uno fare di musica. Di cioè, fino adesso è andato tutto benissimo, tranquillo. Devi mettermi in mezzo. Andiamo uno che, al punto. Amore, preferisci le bionde o le brune? Io ho trovato un'altra categoria. Le abbronzate. Cioè no, io le abbronzate. Sono pazzo delle abbronzate. È la deriva latina di Franchi. Certo. È ormai una deriva latina costante. Anche le abbronzate possono essere bionde o brune comunque. Sì, dipende. Diciamo dipende. Che non lo nota lui. Ci sono due scuole di pensiero. Ecco. Franchi, sei pronto ad andare nel 2001? Un anno di fuoco il 2001. Io allora saluto Alessandra Cravetto. Ciao. La mia sorella, mia amica. Forever. Ciao sorella. Ciao sorella. E noi, Franchi, andiamo nel 2001, subito dopo la pubblicità. Yes.